dire, ma non è con te. Non che dice che pote, ma non ha le ore con te. Idiote, idiote, fai estate un nepotete. Non che dice che pote, ma non ha le ore con te. Idiote, idiote, fai estate un nepotete. Era mania amico, sta manneggia un ciosco. E da me rame dei chem, c'era un monte di via. Che dice che botte, ma non ha le ore.